Olimpia, miti e verità dello sport di Dario Ricci. Da questa mattina sulla pista toscana del Mugello la F2008 ritorna in pista per una 2 giorni di test. Si tratta di un regalo che la Ferrari ha deciso di fare a Valentino Rossi. La macchina è quella, una di quelle che hanno usato Raikkonen e Massa, e il team è di altissimo livello e lavoriamo con degli obiettivi, nel senso che vogliamo fare i tempi, vogliamo andare forte, e guidare la Ferrari Formula 1 qui al Mugello penso che sia una sorta di massimo. Voci dell'annata 2008, con la Ferrari e Valentino Rossi freschi campioni del mondo, che si incontravano nuovamente sul circuito del Mugello. Il dottore a quei tempi corteggiava la rossa, provando a domarla, a guidarla, così come ben faceva già con la sua Yamaha. Avrebbe voluto rispolverare il Valentino di allora, il mito di un altro campione, che di recente ci ha lasciato a 83 anni, dopo essere diventato l'unico campione negli sport motoristici ad essere stato iridato sia nel moto mondiale che in Formula 1. Un fenomenale inglese che, come vedremo, scelse e fu scelto dalle italianissime MV Agusta e Ferrari per entrare nel mito. Il suo nome è John Surtees. It's the 25th German Grand Prix, and the Nürburgring circuit drivers include Jim Clark and up-and-coming John Surtees. What a pity that Stirling Moss is out of the game for good. How he'd have loved to be driving again. La carriera di Surtees è sempre stata appunto legata a doppio filo all'Italia. Nella sua avventura sulle moto dal 1956 al 60 ha corso sempre per MV Agusta, mentre una volta approdato alla Formula 1 è riuscito a vincere con la Ferrari e poi correndo anche con Cooper, Honda e BRM. Nato a Tatsfield nel 1934, Surtees esordì nel moto mondiale nel 52. Fu campione iridato per 3 anni di fila dal 58 al 1960, contemporaneamente in classe 350 e 500. Il primo titolo mondiale era arrivato nel 56 nella sola classe 500. Passato poi nel 60 in Formula 1, trionfò alla guida della Ferrari nel 1964 e corse nel Circus fino al 1972. Proprio in quei giorni del 2008 lo avevamo intervistato, Surtees, per sapere cosa ne pensava, a partire dalla sua esperienza unica, del tentativo di Valentino Rossi di guidare la Ferrari. Sentiamo cosa ci aveva detto allora. Credo che sia una possibilità che potrebbe concretizzarsi facilmente. Dovrà prendere una decisione sul fatto di considerarla solo un'esperienza o qualcosa da prendere più seriamente. Penso che in questo momento sia completamente dedicato alle corse motociclistiche e che il momento per le macchine possa arrivare fra 2 anni o qualcosa di simile. Ma di certo non c'è ragione perché non possa essere felice sedendo su una Formula 1. Con la sua intelligenza potrebbe diventare un bravissimo pilota anche lì. Lei è stato l'unico campione a vincere sia con le 2 che con le 4 ruote. Pensa che Valentino Rossi possa eguagliare il suo primato? Potrebbe. I ragazzi oggi cominciano a guidare prima, molto prima di noi. A 8 anni sono già sulle mini bike o sui kart. Ci sono in generale campioni del mondo più giovani. Se qualcuno dovesse cambiare prima di avere superato il top delle sue capacità, potrebbe adattarsi. La cosa importante è avere l'emozione giusta e il bisogno di farlo. Non deve essere fatto per i soldi o per cose di questo tipo. Devi sentire che la sfida vale la pena di essere vissuta. Per cui a un certo punto Valentino potrebbe dire: ho raggiunto tutto ciò che volevo raggiungere, forse ora potrei provare qualcos'altro. Beh, come sappiamo le cose sono andate diversamente. Il matrimonio tra Rossi e la Rossa è rimasto nel libro dei sogni, così come tanto il pesarese che il cavallino rampante sognano ancora oggi di tornare a dominare nei rispettivi campionati. Ma come fu possibile l'impresa di Surtees? E che uomo e pilota in moto e in auto era il fenomenale inglese? È quello che vogliamo scoprire oggi con l'aiuto dei nostri ospiti. E allora saluto e ringrazio subito Gianni Cancellieri, firma leggendaria del giornalismo sportivo motoristico, per essere oggi ospite di Olimpia, la città dello sport. Grazie, buonasera a tutti. Caro Gianni, ti chiedo subito, abbiamo ricordato il tentativo di Valentino Rossi di qualche anno fa andato a vuoto, ma davvero oggi sarebbe impossibile per un pilota essere campione su 2-4 ruote come fu Surtees? Sì, anche perché l'impegno principale nella serie più popolare, più elevata, che è la Formula 1, non era del genere di quello di oggi. Oggi sono una ventina di gare mal contate ogni anno, allora erano 7, 8, 10, 11, cioè, e restava ai piloti tempo e la possibilità, che oggi non so se abbiano tutti, di gareggiare anche nell'endurance, nelle gare di durata e quant'altro. Ecco, calendario più gestibile quindi, ma quello di Surtees era anche un talento fuori dal normale, vero? Assolutamente sì, questo è proprio vero. Lui ha messo a frutto quello che ha imparato nella moto, diciamo, la sua formazione di corridore, l'ha messo a frutto a pari livello con le automobili, le quattro ruote, e è stato premiato giustamente, insomma. Vederlo guidare al Nürburgring era uno spettacolo, perché lui diceva che conosceva anche i ciuffi d'erba su questa pista infame di 23 km quasi, perché con la moto gli passava a mezzo metro di distanza, a 70 centimetri di distanza, lo vedeva delle curve, sapeva tutto, per dirne una, ecco. Lì infatti ha battuto Clark, ha vinto competizioni proprio decisive anche poi per il suo mondiale. The winner being John Surtees, number 50, who came in ahead of Hartnell and Chadwick. Ma era più forte sulle moto o sulle auto? Ma devo dire che io sulle moto non l'ho visto correre, quindi ho visto, però ci sono dei filmati molto belli della BBC dove si vedono queste corse che erano da far accapponare la pelle, dove lui è emerso con una continuità incredibile. Ci sono stati, mi pare, 54-59, lui ha vinto. Correva sia con le 350 sia con le 500, ha vinto tutte le gare, tutte quante, e quindi è stato un asso di cui purtroppo mi devo fidare sia di quello che sento che di quello che ho visto nei film. Invece l'ho visto correre in auto parecchie volte, non ci si inganna, insomma, sul suo stile, poi la grande tenacia che aveva, che non a caso Ferrari, fra il bello e il brutto tempo che ha avuto con lui, ha riconosciuto, insomma, una competenza tecnica che è proprio di scuola motociclistica, molto molto avanzata, molto elevata, e una pulsione a fare sempre meglio, no? a non essere mai contenti, perché, come diceva Ferrari, nella pratica si trova sempre qualche cosa che spunta fuori all'improvviso, che non era prevista e che fa migliorare una prestazione. Per capire di che razza di campione stiamo parlando, poi, Gianni, basta ricordare qualcuno degli avversari che affrontò in pista. Dunque, sulle due faccio un po' fatica, ma se non posso non ricordare Geoffrey Duke, che di cui lui ha preso a un certo punto il testimone, l'ha portato altissimo. Era il campione degli assi di Sua Maestà Britannica, che ha vinto anche con la Gilera, con macchine italiane, così come ha fatto Surtees, che ha mollato la Norton, con la quale mai e poi mai avrebbe vinto, insomma, in termini brevi, il campionato del mondo, ed è venuto alla IMV Augusta, dove ha dato paghe a tutti per anni. E sulle quattro ruote invece c'era il fiore di quegli anni, a cominciare da Jim Clark e dal suo rivale maggiore, che era Grant Hill, all'americano Dan Gurney, che anche se ha rotto molte macchine ma andava fortissimo come pochi. E poi questi qui, diciamo, li vedevo svettare con una spanna sopra la testa di tutti gli altri, poi però c'erano anche molti altri piloti veloci, non ultimi il nostro Bandini, e per carità anche giovani inglesi emergenti che poi sono emersi, come Jackie Stewart, che era in Formula 3 ancora nel 60 4 e nel 65 vince il Gran Premio d'Italia a Monza, ecco. Beh, davvero campioni straordinari, caro Gianni Cancellieri. Allora direi di prenderci un istante di pausa e poi entreremo proprio in quel box Ferrari dove John Surtees conquistò il titolo mondiale di Formula 1. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta. Olimpia, miti e verità dello sport. What a view it is of Mexico City from the highest roof in Latin America. Città del Messico, 25 ottobre 1964. Sotto gli occhi del principe Filippo di Edimburgo, in visita ufficiale nel paese centroamericano, John Surtees, alla guida di una Ferrari insolitamente bianca e blu, si laurea campione del mondo di Formula 1. Jim Clark's in the lead and having finished with that polo we just saw, here to see the Grand Prix is the Duke of Edinburgh. All'ultima gara della stagione erano ancora in tre in corsa per il titolo. Graham Hill con 39 punti, Surtees con 34 e Jim Clark a quota 30. Gara rocambolesca, quella messicana. Surtees parte male e precipita al 13° posto prima di rimontare. Poi Lorenzo Bandini sull'altra Ferrari tocca Hill e lo manda in testa coda, lanciando Clark verso la vittoria l'iride, ma il motore della Lotus tradisce lo scozzese. Vince così l'americano Gurney su Brabham, davanti proprio a Surtees, che diventa così campione. Sterling Moss points out that though Gurney won, John Surtees, by being second, becomes world champion. Olimpia ci riporta oggi indietro nel tempo, proprio dentro al box della Ferrari di John Surtees, per scoprire come maturò quel trionfo e anche il successivo clamoroso divorzio del campione inglese dal cavallino rampante. A guidarci, a far luce tra i segreti di quei giorni, l'uomo che progettò la Ferrari vincente di Surtees e tante altre Ferrari vincenti dopo di quella. Mauro Forghieri, responsabile del reparto tecnico per le vetture da corsa della Ferrari dal 1961 al 1980. 84. Ingegner Forghieri, ben ritrovato. Ecco, partiamo dalle origini, dall'arrivo di Surtees in Ferrari. John, sai, si ricorda come lo chiamavano, il figlio del vento. Era un nome che gli aveva andato, non credo fossero gli italiani, proprio se l'era guadagnato sulle piste. Comunque l'arrivo di John in Ferrari è stata una cosa molto importante, perché ha portato dentro con sé delle idee nuove, metodi nuovi di lavorare che noi non conoscevamo, che lui aveva acquisito, diciamo, nella sua attività che aveva fatto con la Lola, che era praticamente la macchina che lui aveva sviluppato assieme a Broadley. John ci aveva portato molto perché ci aveva fatto intuire che noi eravamo rimasti un pochino fermi, anche perché le cose che erano successe in Ferrari non erano così semplici da risolvere. Io ero un uomo all'inizio del lavoro, quindi avevo un'esperienza relativamente limitata. Con John trovai un accordo molto valido, perché sposai quelle poche cose che lui poteva dirci e che poteva procurarci. Ad esempio, diventammo nel breve molto bravi anche nel campo delle plastiche avanzate. Noi fino allora avevamo usato delle macchine che erano principalmente costruite con delle lamiere d'alluminio. Dopo imparammo a usare la plastica, facevamo i musi, le carrozzerie, e poi con John si sviluppò un sistema di lavoro che era praticamente moderno. Aveva uno stile di guida molto particolare Surtees, vero ingegnere, in qualche modo ereditato dalla sua precedente esperienza sulle moto. I meccanici notavano che, contrariamente agli altri piloti che spingevano sul telaio attraverso il volante, cioè spingevano sul volante, ha capito, lui invece tirava, era diverso, aveva un modo di forzare la vettura molto particolare, come se fosse una motocicletta. Questo ci faceva sorridere, però eravamo contenti perché era un modo di andare molto forte. Devo dire che John in quegli anni è stato uno dei pochi piloti che ha saputo confrontarsi con i grandi di allora, cosa non facile del resto. Tra l'altro la sua precedente esperienza proprio con l'MV Augusta gli tornò utile anche a Maranello. È stato un pilota oramai desiderato da tutti i grandi organizzatori di corse in Inghilterra, in America, in Francia, in Italia. Era diventato un pochino italiano da un certo punto di vista, parlava italiano, si era abituato col nostro cibo e quindi aveva, diciamo, acquisito quello che c'era di meglio in Ferrari, e noi avevamo acquisito da lui quanto di meglio c'era in lui. Torniamo a quel 25 ottobre 1964 a Città del Messico. Dietro al trionfo di Surtees, un grande lavoro di tutto il team Ferrari. Beh, noi lì facemmo una cosa molto particolare, perché chi aiutò molto Giona a vincere in Città del Messico fu Lorenzo Bandini, grazie al 12 cilindri di 1500 che avevamo, perché lei sa che il Messico è molto alto e quindi i motori perdono potenza. Quindi quei motori da 1,5 litri erano dei motori che perdevano, diciamo, un buon 10-15%. Però noi facemmo degli esperimenti con Lorenzo Bandini e il 12 cilindri, lo chiamavamo il piccolo 12 cilindri perché era 1,5 litri, allungammo fortemente i condotti e divenne il motore particolarmente valido per quel Gran Premio. E fu chi involontariamente aiutò John a vincere quel Gran Premio, non a vincere, ad arrivare in un modo ad acquisire i punti per poter diventare campione del mondo. Arrivò il titolo quindi, certo, ma poi traumatica anche la rottura, figlia dei test che Surtees volle fare con un'altra auto, la Lola, e con la clamorosa esclusione del pilota dalla 24 ore di Le Mans. Indubbiamente John commise, come si può dire, una leggerezza, era troppo amante della sua macchina Lola, fece quelle prove in Canada e purtroppo ebbe quell'incidente, per cui i suoi rapporti con il nostro presidente Enzo Ferrari non furono più come lo erano stati fino allora, e quindi dovevamo portare pazienza. Purtroppo poi si arrivò all'episodio di Le Mans, e io posso dirle una cosa, che quell'episodio di Le Mans ha avuto un significato per noi di un'importanza enorme, perché purtroppo la scomparsa dalla squadra di John, non tanto per un certo tipo di corse, ma per la Formula 1. Noi avremmo vinto il campionato del mondo quell'anno, glielo posso dire io con grande sicurezza. Purtroppo quando io capii che quello che stava succedendo non si poteva evitare, perché dopo tutto era stato Enzo Ferrari assieme a Dragoni a decidere quella cosa, e io cosa avrei potuto dire? Che non ero d'accordo? Che non era giusto? Non potevo dire nulla. Quindi ho dovuto accettare una cosa che vedevo in prospettiva molto problematica per noi. In conclusione, Mauro Forghieri, le chiedo, cosa ha lasciato John Surtees alla Ferrari? Io non ho conosciuto Schumacher, ma considero Schumacher un grandissimo professionista. John è stata, come Schumacher, uno di quelli che ha portato delle cose nuove in Ferrari, modo di lavorare, modo di pensare e modo di sviluppare le cose. Credo che Schumacher abbia fatto lo stesso nella Ferrari, molto più moderna. Per me è stato, da un punto di vista umano, molto importante John, ovviamente. Schumacher lo è stato, credo, per molti della Ferrari, e in particolare per la Ferrari stessa. John Surtees in the white car, Jack Brabham coming through on the inside, Arma Brabham fiercely snaking under the braking, it's Jack Brabham who takes the lead. Jack Brabham leads John Surtees, but John Surtees comes back on the inside, and it's John Surtees who retakes the lead. Gianni Cancellieri, firma storica del giornalismo motoristico. Abbiamo sentito la testimonianza di Mauro Forghieri, che di John Surtees è stato anche buon amico. Ti chiedo, Gianni, quale eredità lascia questo campione al mondo dei motori? Lascia sicuramente una eredità di eccellenza tecnica e sportiva, tutte e due. Dall'altra, la tenacia nel tentare e portare avanti il ruolo di imprenditore, che è stato molto sfortunato, sfortunato nel senso che non ha avuto successo, intendo dire questo, con le sue macchine e così, ma fino a quando è riuscito a tentare dignitosamente l'ha portato avanti. Ma poi c'è il dramma della sua vita, che è la perdita di questo figlio 18enne che, giovane pilota, scompare per un incidente in cui viene colpito da un pneumatico volante che lo colpisce alla testa. lui è emerso dal mare di lacrime di questa tragedia e ha costituito una fondazione intestata a Henry Surtees, della quale si è occupato fino all'ultimo momento, in questo costituendo un esempio sociale, anche non umano e sociale, non soltanto sportivo. Ecco, quindi un grande a tutto tondo. Gianni Cancellieri, grazie per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport. Buonasera a tutti quanti, grazie. Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet radio24.it.